1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci cari ascoltatori, le 7:18 minuti, siamo pronti a leggere i giornali con tanti temi, l'Unione Europea che fa i conti all'Italia su tutti. E allora andiamo a sfogliarli questi quotidiani che trovate in edicola. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Mercoledì 18 maggio, eccoci qui, il Sole 24 Ore apre, come molti quotidiani, sull'accordo sulla flessibilità Unione Europea, Padoan, niente deviazioni, e cioè Bruxelles ci dice evitare un possibile scostamento da 2-3 miliardi nel 2017, ma l'Italia gode e godrà oggi di una certa flessibilità sui conti, flessibilità per 14 miliardi. Questo è il titolo anche di Repubblica. L'Unione Europea più flessibilità all'Italia, ma nel 2017 servirà uno sforzo. Ai ai, quando sento queste frasi io mi guardo istintivamente il portafogli. Vabbè, il giornale, i soldi ci sono, ora giù le tasse, così traduce il regalo dall'Unione Europea. Per il Messaggero, l'Italia incassa più flessibilità. Mentre il titolo di prima pagina della Stampa, a partire proprio da questo dell'Unione Europea, però riguarda una banca italiana, l'Unicredit. Governo preoccupato per il caso Unicredit, Ghizzoni verso l'addio. Questo è il titolo di prima pagina, cioè l'amministratore delegato Federico Ghizzoni a un passo dall'addio da Unicredit. Lo sconto è Unione Europea da 14 miliardi, è il titolo d'apertura anche per il giorno. Mentre l'Unità, Auf Wiedersehen, austerità, questo è il titolo di prima pagina. Il Corriere della Sera invece sulle unioni civili, i vescovi accusano, questo è il titolo principale. Libero invece, Libero che tra l'altro va a far registrare l'ultimo numero firmato dal direttore Maurizio Belpietro, che firma l'ultimo editoriale, sostituito da Vittorio Feltri, che appena 10 giorni fa era ritornato a Libero e ora diventa il nuovo direttore editoriale. Libero, un no contro il pericolo Renzi, il referendum decisivo, Maurizio Belpietro dice con chi sto, sto dalla parte del no. Tra l'altro sulla vicenda Libero c'è il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano. Nasce il giornale unico del sì. Il patto Verdini-Angelucci, Verdini il politico che appoggia Renzi, Angelucci deputato e editore di Libero, via Belpietro, arriva Feltri a sostenere la riforma e dunque a sostenere il sì al referendum. Legge così il Fatto Quotidiano l'avvicinamento della direzione di Libero. Allora, che dire, beh, della Chiesa e delle unioni civili ne parleremo più avanti, anche perché il Corriere della Sera, mi ha un po' colpito, dedica le prime sei pagine a questo tema. Comunque, mi ha colpito la figura di cui ieri si parlava, perché è indagato e che oggi viene approfondita da tutti i giornali, dell'ex vescovo di Savona, il cardinale Domenico Calcagno, che è finito le cronache giudiziarie perché a Savona è indagato per malversazione come ex vescovo per l'appunto. La storia più incredibile la racconta Marco Preve a pagina 9 di Repubblica. Investimenti crack, milioni di debiti, il cardinale sotto accusa. Tra l'altro proprio all'indomani dell'appello del Papa a dire la chiesa sia una chiesa di preti scalzi, preti poveri. Scrive Marco Preve su Repubblica riguardo al cardinal Calcagno: se non esistessero fotografie e video che costringono a associare il nome al viso rotondo, all'incedere lento del curato di campagna, la biografia del cardinal Calcagno meriterebbe di comparire sicuramente tra quelle delle vite vissute pericolosamente. E qui racconta per esempio quando nel 2012, durante una perquisizione a casa, scoprirono un arsenale con pistole 357 Magnum, fucili a pompa, fucili d'assalto, carabine di precisione. Sono un cacciatore, rispose il cardinale Calcagno, allora Monsignor Calcagno, un cacciatore. racconta Marco Preve quando da vescovo dovette gestire casi di preti pedofili, trasferendo il responsabile, ma secondo il giudice lo fece a malincuore, scrisse il giudice stesso. Insomma, il passato è tornato a fargli visita. Il PM Cristiana Buttiglione indaga sull'Istituto di Sostentamento del Clero, l'ente che ha in gestione i beni della diocesi. Cosa ha scoperto il successore di Calcagno? Che negli anni d'oro del mattone l'istituto, presieduto da Don Pietro Tartarotti, ha dato vita a una lunga serie di operazioni immobiliari. Qualcuna di queste ha mandato in sofferenza le casse dell'istituto. Sono arrivati i dissapori tra i soci e, insomma, ora l'accusa di malversazione relativa ad operazioni immobiliari avallate da Calcagno che avrebbero danneggiato la diocesi di Savona. Certo che l'appellativo di Monsignor Rambo se l'è conquistato per l'arsenale da cacciatore, dice lui. Va bene. Allora, ieri abbiamo parlato con Oscar Giannino anche della vicenda delle scuole aperte tutto l'estate. Se volete potete chiamarci ancora su questo, dopo le 8 all'800240024. Dopo le 8 però i centralini sono aperti, perché oggi il giorno dedica le prime due pagine proprio alla vicenda delle scuole aperte d'estate, una vicenda che tormenta molte famiglie che dicono dove parcheggiamo i bambini con tanto di costi e oneri dall'8 giugno. Io dico l'8 giugno perché a Milano finiscono le scuole l'8 giugno, non so se in tutte le regioni è così, ma più o meno ci siamo. E allora vogliamo scuole aperte d'estate. La petizione è stata lanciata da una logopedista, Alberta Lessi, dall'Appennino Emiliano, mamma di 3 figli, per una revisione del calendario che preveda un'organizzazione diversa, un allungamento almeno fino al 30 giugno delle lezioni delle elementari. In meno di una settimana ha raccolto già oltre 4.000 firme e l'idea è stata in parte recepita dal ministero. Il ministro dell'istruzione Giannini dice: parte il progetto Scuola al Centro dal 15 giugno, per ora in 700 scuole, c'è un investimento di 10 milioni di euro, per ora ci si concentrerà sui quartieri più disagiati di città come Milano, Roma, Napoli e Palermo, poi chissà. Comunque, le famiglie in pressing sul ministro, vogliamo scuole aperte d'estate. C'è anche l'intervista a una preside milanese, l'istituto che ha spalancato le porte dicendo: qui le vacanze si fanno in aula. Per carità, può mettere anche un po' di stretta al cuore pensare che anche le vacanze o parte delle vacanze dei bambini si svolgano a scuola, ma d'altronde, insomma, non è facile. Le famiglie sono fatte ormai sempre più di uomini e donne che lavorano, i nonni, nessuno, non tutti possono permettersi i nonni che tengono i bambini, e non tutti possono permettersi soprattutto spese per mandarli in vacanza, in colonie, eccetera. E quindi, in qualche caso, bisognerà porre rimedio, almeno fino al 30 giugno. Comunque il giorno dedica 2 pagine a questo, anche il Messaggero: nelle scuole aperte d'estate, box teatro Alta Sartoria, il progetto, è il progetto appunto del ministero, per offrire in 4 città attività extrascolastiche fuori dagli orari di lezione. Gli istituti si organizzano, è il progetto lanciato dal ministro Giannini, certo riguarda soprattutto le grandi città, i quartieri più disagiati, quindi non tutte. Mentre questa è una notizia che riguarda gli avvocati, attenzione, tanti avvocati ci ascoltano e quindi la pagina 27 di Repubblica, ma non solo è per gli avvocati, per tutti coloro che magari fanno una causa per motivi, come dire, abbastanza futili. Attenzione, stop agli avvocati delle cause perse. Non accettate i processi inutili. Franco Vanni racconta, pagina 27 di Repubblica, tutto parte dalla Cassazione che ha punito un avvocato con l'accusa di aver voluto, per lite temeraria, insomma, aver voluto intasare le aule con una lite temeraria, liti col vicino di casa per la lavatrice troppo rumorosa, cause sull'esatta spaziatura tra i pioppi in filare che dividono 2 campi, istanze contro l'ex moglie per l'orario in cui il bambino deve essere accompagnato a casa dopo il nuoto, insomma cause già perse in partenza, intentate in malafede spesso e che inceppano il meccanismo della giustizia. Per ogni lite temeraria c'è un avvocato che non ha saputo o voluto frenare il cliente, ed ecco per questo che la Cassazione, con la sentenza dello scorso 12 maggio, afferma che l'avvocato ha l'obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare il cliente sulle caratteristiche della controversia e le possibili soluzioni. Il giudice ha dato così ragione a una donna che ha citato il proprio avvocato colpevole di non averla dissuasa dal presentare un'istanza per un risarcimento poi dichiarata infondata dal Tribunale di Roma. E l'avvocato è stato condannato a versare alla donna 1.000 euro. E dunque, insomma, sulla responsabilità degli avvocati, tra l'altro si era pronunciato anche Davigo, il nuovo presidente dell'ANM, dicendo si devono introdurre clausole penalizzanti per le liti temerarie. Insomma, una pagina sulle liti temerarie, sul ruolo degli avvocati, lo trovate a pagina 27 di Repubblica e andate a leggerlo lì. Mentre siamo all'articolo che mi fa pensare della giornata. Quello da mani sul volante, se siete alla guida, e invece appoggiate oggetti contundenti se siete a colazione. In treno, come sapete, atteggiamento da atterraggio di emergenza aerea. Così la Sardegna diventa l'isola dell'azzardo. È una pagina del secolo XIX, Marco Menduni, pagina 4. Pioggia di soldi in Sardegna. Perché? Cosa hanno escogitato regione e governo? Per loro gioia reciproca e meno gioia forse di chi gioca ai giochi d'azzardo. I forzieri pubblici piangono? C'è una regione che da 10 anni batte cassa allo Stato perché i soldi che rivendica sono rimasti solo una promessa, un impegno, non si sono mai visti? Semplice. Arriva al bancomat dei giochi dell'azzardo legale per risolvere il problema. Tradotto dal burocratese di questa comunicato di Palazzo Chigi, la devoluzione nell'ambito delle entrate erariali della raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro di natura sia tributaria non sia non tributaria, significa che, tradotto dal burocratese, una robusta quota di quanto incassa il fisco dalla straordinaria offerta di gioco legale disponibile ovunque rimarrà nelle casse della Sardegna, regione a statuto speciale. D'ora in poi, di tutti i giochi, ma proprio tutti, dalle slot machine al lotto, lotterie nazionali, istantanee, gratta e vinci, miliardari, turisti per sempre, una montagna di soldi, è la regione stessa che ha fatto i conti. In Sardegna entreranno fino a 150 milioni in più l'anno e tutti i 900 milioni di arretrati rivendicati saranno pagati in 4 anni, tenendosi insomma un po' più di tasse sul gioco d'azzardo legalizzato. Ma sì, la Sardegna, scrive il secolo XIX, rischia così di diventare l'isola dei giochi d'azzardo legalizzati? E pazienza. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il motore a rotta, l'informazione. Marche profonde. Marche profonde, bella la riscoperta dei dialetti, mandateci le vostre sigle in dialetto nelle vostre lingue al 349-238-6666, è un numero anche WhatsApp, quindi potete mandare l'audio perfetto come questo nostro ascoltatore. Allora, dobbiamo parlare di Unione Europea, dobbiamo parlare di conti pubblici, dobbiamo parlare dell'Italia e di quello che succederà molto probabilmente oggi, ma è già anticipato dai giornali, è un balletto che è continuato un po' vari giorni e il Sole 24 Ore con Beda Romano racconta salvo sorprese la Commissione Europea oggi dovrebbe pubblicare gli attesi giudizi sui conti pubblici dei paesi membri della zona euro, così come le annuali raccomandazioni paese. Per quanto riguarda l'Italia, Roma e Bruxelles sono giunti a un sofferto compromesso dopo un lungo tira e molla negoziale. Secondo uno scambio epistolare pubblicato ieri dal Tesoro, il vicepresidente della Commissione Europea, Dombrovskis, e il commissario degli affari monetari, Moscovici, sono pronti a concedere flessibilità di bilancio chiesta all'Italia nella finanziaria per il 2016, in cambio però di nuovi impegni a evitare un buco nei conti pubblici nel 2017. Dunque, ci sarà, come traducono tutti i giornali, un scostamento di flessibilità, una flessibilità per 13,5 miliardi per i conti pubblici del 2016. Alcuni giornali scrivono 14, il Sole 13,5. Il deficit all'1,8% per il 2017. Dunque, certo un po' di flessibilità sui conti, però poi per il 2017 avete degli impegni da rispettare, come dire, vi diamo un po' di flessibilità. Renzi dice non è il massimo, non è la ricetta di tutti i mali, non è la flessibilità che avevamo chiesto piena, ma è già una buona cosa. Tanto che l'unità titola Auf Wiedersehen, flessibilità, cioè addio flessibilità, così in prima pagina dell'unità. Tutti dicono che vuol dire il fiscal compact è finito. No, non è che è finito il fiscal compact. Comunque il sì europeo alla flessibilità, 14 miliardi, ma ora gli impegni per il 2017. E quando si arriva al capitolo impegni, mi ha colpito e non certo positivamente, nel senso che mi ha un po' allarmato ciò che Roberto Petrini scrive a pagina 4 di Repubblica riguardo la manovra per il 2017, visto che l'Unione Europea con una mano ci aiuta e con l'altra ci chiede degli impegni. Ecco allora che il Corriere della Sera già nei giorni scorsi diceva si cercano 10 miliardi, attenzione. Per Repubblica potrebbero essere già saliti a 20 miliardi nel giro di un giorno. Speriamo di questo tempo, di questi ritmi, di non arrivare ad aumentarli ancora entro ottobre. Comunque, governo alla ricerca di 20 miliardi per tagli di tasse e aiuti alla crescita. Incassato il successo a Bruxelles, scrive Repubblica, grazie alla regia accurata, al pressing delle ultime settimane del Tesoro, la strada è meno ripida, ma ugualmente stretta e piena di ostacoli. La partita si sposta dopo la pausa estiva, quando tra il 30 settembre e il 12 ottobre il governo dovrà presentare i nuovi documenti di bilancio in un clima che sarà segnato dalla campagna per il referendum costituzionale. Il Tesoro dovrà allestire una manovra a 0,6-0,7 punti di PIL se vorrà disinnescare l'aumento dell'IVA di 2 punti previsto per il 1 gennaio 2017. Il costo complessivo è di 15 miliardi. Di questi Bruxelles ce ne ha buona 6,4, ma a noi spetta il compito di trovare circa 8 miliardi. A questi 8 vanno aggiunti altri 2 o 3 di aggiustamento aggiuntivo dovuto alla limatura del PIL 2017. In tutto una decina di miliardi, ma potrebbero salire a 20, ecco qui il conto finale, tenendo conto delle misure in cantiere per la cura shock dell'economia. Insomma, conti pubblici, sta di fatto che, tra l'altro, tutto avverrà proprio nel momento in cui ci si giocherà la partita sul referendum. Una partita che ieri ha fatto registrare da parte di Renzi una sorta di invito al suo stesso partito, il Partito Democratico, una sorta di tregua inviata come appello da Renzi. Ora in piazza basta farci le pulci, 6 mesi pancia a terra. Ieri tra l'altro era anche a Bari, dove ha incontrato Michele Emiliano, come dire, suo grande, a volte rivale anche all'interno dello stesso partito, tanto che Emiliano ha detto: io e Renzi abbiamo ritrovato quella simpatia reciproca per far bene il proprio lavoro. Insomma, non è proprio una dichiarazione d'amore da parte di Emiliano, ma comunque almeno simpatia reciproca. Dice però Renzi a quelli del suo stesso partito: smettiamo di farci le pulci tra noi. Nei prossimi 6 mesi occorre, non dico una tregua, ma io questo farò e non altro. Nei prossimi 6 mesi dobbiamo andare a testa alta, giocare all'attacco, non di rimessa, senza aver paura degli avversari, in ogni piazza, in ogni luogo, raccontiamo quello che stiamo facendo in Italia. Insomma, non proprio una tregua, ma un po' sì, è ciò che chiede Renzi al suo partito in vista del referendum. Ma tra l'altro, ora tocca un po' parlare di noi nel senso di giornali. Lo so, è una delle cose secondo me più fastidiose, i giornalisti che parlano dei giornalisti e dei giornali, ma a volte anche il controllo dei giornali significa anche un po' un controllo di una parte dell'opinione pubblica, anche un po' del potere. E allora ci sono almeno 3 notizie che riguardano i giornali e che sono finite oggi sui giornali, raccontate dai giornali stessi. La prima, se volete, è questa: Santoro che compra il 7% del Fatto Quotidiano, prende quote del 7%. Questo vuol dire che, insomma, tra l'altro per elaborare anche un progetto televisivo, quindi questo vuol dire che Santoro forse abbandona tutte le velleità di tornare in Rai. Anche perché dice la RAI di Campo dell'Orto è un bluff e quindi non proprio si mette nella posizione più amichevole. Poi c'è stato un cambio di direzione a Libero. A Libero c'è stato un cambio di direzione dove il direttore Maurizio Belpietro lascia e viene avvicendato da Vittorio Feltri, che torna a Libero e sostituisce Maurizio Belpietro. E qui il Fatto Quotidiano dedica addirittura a questo l'apertura di prima pagina. Stefano Feltri e Carlo Tecce raccontano che dietro a questo cambio di direzione c'è una svolta da parte degli editori di Libero, che Antonio Angelucci è anche un parlamentare di Forza Italia, ma che starebbe passando ad Ala, quindi da Verdini, e quindi vorrebbe un giornale Libero più verdiniano. Leggansi, anche leggisi, più leggasi, più che altro, più renziano, verso il referendum. Dopo il Corriere, Libero, il giornale unico del sì. Non è un caso forse che oggi Maurizio Belpietro, nel firmare il suo ultimo editoriale da Libero, dice: perché io sto dalla parte del no nel referendum, anche se, dice, rispondendo alla domanda di un lettore: ma da che parte sta Libero, per il sì o per il no al referendum? Non so cosa pensi la direzione di Libero, so cosa pensa Maurizio Belpietro, che fino a ieri sera era il direttore di Libero. Sono per il no al referendum, e poi motiva il suo no. Però finisce poi l'editoriale dicendo: lascio, è il mio ultimo editoriale. L'editore ha deciso un avvicendamento alla guida del quotidiano e, come in ogni giornale, l'editore è sovrano e io mi faccio da parte. E poi c'è l'Unità. L'Unità, dove abbiamo annunciato c'è forse un cambio di direzione in arrivo. Da Erasmo D'Angelis dovrebbe arrivare, come anticipato ieri il Corriere, Riccardo Luna, da partire da giugno, ma soprattutto c'è la redazione con i giornalisti che, di fronte al possibile taglio da 33 a 16, sono ovviamente a protestare, perché, dicendo, deve intervenire il partito, è un ricatto. L'ipotesi è quella di dimezzare la redazione. Insomma, giornali che parlano di giornali che parlano di giornalisti che parlano in radio. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, una premessa tanto per... Non so cosa c'entri Mauro Meazza, sto parlando di giornalisti, ma... Appunto. Senti, parliamo, guarda, allora facciamo giornali che parlano della dichiarazione dei redditi, ad esempio. Oggi, con il Sole 24 Ore, già ti ammonì ieri. Sì. Unico o società, cioè tutte le indicazioni, un focus di 16 pagine per la dichiarazione, appunto, che riguarda le società. Guarda che quest'anno ci sono degli sconticini qua e là, delle agevolazioni, il maxi ammortamento, sei preparato sul maxi ammortamento? Sì, so, ci sono delle norme nuove sulle blacklist, sì. A proposito, in norme e tributi potrai approfondire il dato che ha fatto un passetto la trasparenza, l'accordo per lo scambio di dati tra Italia e Panama. Mm-hmm. Abbiamo un primo voto per la ratifica, che adesso piano ci arriviamo. Poi anche il patent box, naturalmente, di cui sai tutto e quindi non ti voglio annoiare. Allora, ti invito chiaramente a meditare sulle 16 pagine del nostro focus. Mm. Hai visto che c'è un problemino con la Grecia? Perché sulla 24 ore di oggi, appunto, riportiamo questa proposta. Il Fondo Monetario Internazionale propone una sorta di periodo di grazia in cui non pagare interessi e sanzioni, che sarebbe però di 25 anni, no, un periodo un po' prolungato. E invece per noi, so che già hai letto, come devi, è giusto che tu faccia, della questione della pagella UE che oggi ci viene consegnata. Vedremo poi il problema della difformità delle cifre che segnalavi prima, è se contiamo o no tutto l'aspetto delle clausole di salvaguardia, sai quel giochino per cui se non riusciamo a fare i risparmi aumentiamo qualcuno dovrà pagare, esatto. Qualcuno dovrà pagare, ad esempio tu, caro Alessandro. Ti voglio poi segnalare che comunque si sta preparando il decreto competitività. Mm-hmm. Il governo dovrebbe presentarlo a fine maggio, ci sono diverse ipotesi di intervento, tra cui agevolazioni per chi investe nelle piccole e medie imprese e anche per i mini bond, sai, quel sistema di finanziamento che è stato lanciato un paio di anni fa, ma ha un po' nicchiato finora, quindi ulteriori agevolazioni per i mini bond. Ti voglio poi dire che mi scordavo, ma ieri su norme e tributi c'era un ampio trattamento per i premi di risultato, cioè la detassazione dei premi di risultato, ci torniamo anche oggi naturalmente nelle pagine di norme e tributi. Mi pare di averti segnalato alcune delle cose notevoli di oggi. Non parliamo anche noi qua e là, sì, delle vicende dei giornali cui facevi cenno prima, ma io per il momento mi taccio. Traffico! Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, anche quelli di Roma, di Napoli, e me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quello della Sicilia. No, no, per carità, tutta Italia, caro ascoltatore, tutti, tutti. Allora, allora, che dobbiamo dire? Torniamo in qualche modo alla notizia che avevo citato in apertura, cioè la CEI, i vescovi contro la legge Cirinna, la legge sulle unioni civili. Ieri il presidente della CEI Bagnasco ha detto: questa è un'equiparazione in pratica al matrimonio, il colpo finale sarà l'utero in affitto. Insomma, ha criticato duramente quella che è la legge alle unioni civili. Tra l'altro il Corriere della Sera intervista il cardinal Ruini, che è il predecessore di Bagnasco, e dice, intervistato da Gian Guido Vecchia, pagina 2, dalle unioni civili rischio derive, quelle norme vanno cambiate, il mio giudizio decisamente negativo. Equiparare al matrimonio le unioni tra persone dello stesso sesso significa stravolgere parametri fondamentali a livello biologico, psicologico, etico. Parametri che fino a pochi anni fa tutti i popoli, tutte le culture hanno rispettato. E riguardo all'utero in affitto, dice il cardinal Bagnasco, ha detto la verità che fa luce su varie illusioni e mistificazioni. Già ora si moltiplicano le sentenze giudiziarie che legittimano le adozioni. Purtroppo non ci sarà bisogno di attendere molto per qualche pronunciamento europeo che, a parte il nome, parifichi del tutto le unioni civili al matrimonio. Questa è la posizione dei vescovi. Qualcuno giustamente anche sul Libero fa notare, insomma, Bagnasco fa quello che non fa il Papa, si traveste da Papa, questo è secondo l'auspicio di Libero, secondo l'auspicio di molti cattolici. Invece le critiche da parte di tutti, anche per esempio di Alfano, che certamente come esponente politico è vicino alle gerarchie vaticane, che dice lo rispetto, ma l'interpretazione data alla legge è sbagliata dal cardinal Bagnasco. Va bene, mi ha un po' colpito, lo devo dire, le sei pagine con cui il Corriere della Sera apre il giornale, prime sei pagine dedicate a questo tema, e forse anche la troppa importanza o la troppa rilevanza, non sto dicendo che non sia una notizia rilevante se il capo dei vescovi parla, ma la troppa rilevanza data a queste parole forse è parte del problema. Dopodiché Repubblica racconta, pagina 7, che a partire da queste parole ora rispuntano i teocon italiani. Chi sono? Gaetano Quagliariello, Eugenia Roccella, Lucio Malan, Maurizio Gasparri, Maurizio Sacconi, Giovanardi, pronti a trasformare tutto questo in partito? Punto di domanda? Lasciamo la domanda e passiamo oltre. L'apertura della Stampa invece è un'apertura un po' singolare, se non altro si distingue da tutti gli altri giornali, perché la Stampa ha questa notizia in prima pagina messa in grande evidenza, e cioè: governo preoccupato per il caso Unicredit, i soci sono all'opera per una nuova governance della banca, l'amministratore delegato Federico Ghizzoni è a un passo dall'addio, così anche in bilico la posizione del presidente Giuseppe Vita. È Gianluca Paolucci che scrive questo retroscena, che sarebbe abbastanza clamoroso se confermato, vedremo oggi. A pagina 2 della Stampa, appunto, l'amministratore delegato di Unicredit Ghizzoni a un passo dall'addio, il presidente Vita traballante, una prima linea di manager messa anch'essa in discussione, e forse per riequilibrare il tutto anche un rimpasto del consiglio dopo mesi di mugugni dei soci, mezze ammissioni, retromarce. Al vertice della prima banca italiana sta prendendo corpo un vero e proprio ribaltone. A farne le spese potrebbe essere Ghizzoni, oppure solo lui, al quale i soci interpellati riconoscono comunque di aver lavorato sempre nell'interesse della banca. E tra l'altro c'è un resoconto a pagina 3 del dossier che preoccupa Il governo, il dossier all'esame di Palazzo Chigi serve stabilità per la banca più internazionale. Insomma, interessante per l'assetto bancario di Unicredit la lettura della stampa, pagina 2-3. Sono in veloce conclusione, sono anche in diretta sul mio profilo pubblico di Facebook, ci sono tantissime pagine che avrei voluto leggere, c'è anche un'intervista a Giovanni Bazzoli, è la prima volta che parla con Ezio Mauro, ex direttore di Repubblica, due pagine del banchiere, ex presidente di Intesa. Vi segnalo solo che parla, due pagine su Repubblica, siamo alla carta costa, però l'articolo più inutile scovato sui giornali, eccolo qua, una pagina del giornale dedicata al nuovo libro di Barbara D'Urso. Quanti anni mi dai? Barbara D'Urso che spiega il mangiare sano, i consigli per restare in forma, tipo questo, il primo, vi dico solo il primo. Appena sveglia, cosa faccio? Sorrido e faccio 10 respiri profondi a bocca aperta. Ma chi se ne frega?